La sera ci fu una ventata di lavoro. Morris si fece più vispo e scambiò qualche battuta con i clienti. Carl Johnsen, l'imbianchino svedese che non si era fatto vedere per diverse settimane, entrò con un sorriso ebete e comprò $2 di birra, dell'affettato e del formaggio svizzero. In un primo momento Morris temette che gli avrebbe chiesto di mettere in conto. Non aveva mai pagato quanto gli era stato messo in conto prima che Morris smettesse di vendere a credito, ma l'imbianchino aveva i contanti. La signora Anderson, una vecchia fedele cliente, lasciò $1. Poi entrò un forestiero e spese 88 cents. Dopo di lui vennero altri due clienti. Morris sentì rinascere un po' di speranza. Che ci fosse una ripresa? Ma dopo le 8:30 le mani gli si fecero grevi per l'ozio. Per anni era stato il solo bottegaio in un raggio di chilometri a tenere aperto la sera. Proprio per questo riusciva a far quadrare il bilancio, ma adesso Schmitz gli teneva testa ora per ora. Morris si fece di soppiatto una fumatina, ma cominciò a tossire. Ida da sopra batté sul pavimento e lui spense il mozzicone e lo ripose. Si sentiva inquieto. Si mise alla vetrina a scrutare in strada. Vide passare un filobus. Passò davanti al negozio il signor Lawler, suo cliente di un tempo che il venerdì sera lasciava almeno un biglietto da 5. Morris non lo vedeva da mesi, ma sapeva dove era diretto. Lawler distolse lo sguardo e affrettò il passo. Morris lo seguì con lo sguardo mentre spariva dietro l'angolo. Accese un fiammifero e controllò di nuovo la cassa. $9.50. Neanche le spese. Julius Karp aprì la porta, infilando dentro la sua stupida faccia. Podolski è venuto? Podolski chi? Il profugo. Morris irritato disse: quale profugo? Con un grugnito, Karp entrò chiudendosi la porta alle spalle. Era basso di statura, con un'aria pomposa, tutto elegante ora che era avanti con gli anni. Un tempo, come Morris, aveva faticato per ore e ore nel suo negozio di scarpe. Ora se ne stava tutto il giorno in pigiama di seta fin quando veniva l'ora di dare il cambio a Lewis prima di cena. Benché fosse un uomo rozzo, privo di sensibilità, Morris andava abbastanza d'accordo con lui. Ma da quando aveva affittato il negozio del sarto ad un altro negoziante di alimentari, certe volte non si rivolgevano nemmeno la parola. Negli anni passati Karp veniva spesso a sedersi nel retrobottega di Morris, a lagnarsi della sua povertà, quasi fosse una nuova invenzione e lui ne fosse la prima vittima. Dopo il suo successo con i vini e i liquori, veniva meno spesso, ma sempre più di quanto fosse gradito. Solitamente per denigrare il negozio di Morris o per sputare consigli non richiesti. Il suo biglietto d'ingresso era la sua fortuna, che lo segnava dovunque andasse, a danno, secondo Morris, di qualcun altro. Una volta un ubriaco aveva lanciato un sasso contro la vetrina di Karp e aveva mandato in frantumi quella di Morris. Un'altra volta St. Pearl aveva dato al commerciante di liquori un'informazione su un cavallo, dimenticando poi di scommetterci lui. Karp aveva vinto $500 puntandone 10. Per anni Morris era riuscito a non soffrire della fortuna dell'altro, ma ultimamente si era scoperto ad augurargli qualche piccola disgrazia. Podolski è quel tale a cui ho telefonato di venire a dare un'occhiata al tuo negozio, Karp rispose. Di un po', chi è questo profugo? Un tuo nemico? Karp gli diede un'occhiataccia. Manderesti, insistette Morris, un amico a comprare un negozio che ha perso la clientela migliore proprio per colpa tua? Podolski non è mica te, rispose Carpe. Gli ho spiegato che posto è. Gli ho detto, il rione sta migliorando. Può comprare il negozio a condizioni vantaggiose e apportare delle migliorie. È stato trascurato per anni. Nessuno ci ha cambiato nulla da 20 anni. Ti auguro di vivere tanti anni quanto sono i cambiamenti che ho fatto, Morris cominciò, ma non terminò, perché Carp era accanto alla vetrina che sbirciava nervosamente nella strada buia. Hai visto quella macchina grigia che è passata adesso? Disse il commerciante di liquori. È la terza volta in 20 minuti che la vedo. I suoi occhi erano inquieti. Morris sapeva cosa lo preoccupava. Metti un telefono in negozio, gli consigliò. Così ti sentirai più tranquillo. Carp osservò la strada per qualche istante e con tono preoccupato replicò. Un telefono non è roba per uno spaccio di alcolici in un quartiere come questo. Se avessi un telefono, qualsiasi ubriacone mi chiamerebbe per portargli roba a domicilio e una volta arrivato là mi direbbe che non ha un soldo. Aprì la porta, ma ripensandoci la richiuse. Ascolta, Morris, disse abbassando la voce. Se tornano di nuovo, chiudo la porta d'entrata e spengo la luce. Poi ti chiamo dalla finestra del retro e tu telefoni alla polizia. Ti costerà 5 cents, gli disse cupamente Morris. La mia solvibilità è garantita. Carp se ne andò nervoso. Dio benedica Julius Carp, pensò il negoziante. Senza di lui la mia vita sarebbe troppo facile. Dio fece Carp perché un povero bottegaio non si scordasse che la vita è dura. Per Carp, pensò, non era così dura, ma perché invidiarlo? Lasciava volentieri al negoziante di liquori le sue bottiglie e il suo denaro solo per non essere lui. La vita era già abbastanza brutta. Alle 9:30 entrò un forestiero a comprare una scatola di fiammiferi. Un quarto d'ora dopo, Morris spense le luci della vetrina. La strada era deserta. C'era solo un'automobile parcheggiata di fronte alla lavanderia, oltre i binari del tram. Morris la scrutò attentamente, ma non riuscì a vedere nessuno dentro. Meditò di chiudere ed andare a letto, poi decise di tenere aperto ancora per gli ultimi minuti. Talvolta qualcuno entrava che mancava un minuto alle 10. 10 cents erano sempre 10 cents. Un rumore alla porta laterale che dava nell'androne lo spaventò. «Ida?» La porta si aprì lentamente. Tessi Fuso, una ragazzona italiana con la faccia tonda, entrò in vestaglia. «È chiuso, signor Bober?» chiese imbarazzata. «Entri!» disse Morris. «Mi scusi se sono entrata da dietro, ma non sono vestita e non volevo uscire in strada». «Non importa. Per favore, mi dia 20 cents di prosciutto per la colazione di Nick domani». Morris capì. Voleva scusarsi per la scappata di Nick all'altro negozio quel mattino. Tagliò una fetta di prosciutto in più. Tessi comprò anche un quarto di latte, un pacchetto di tovagliolini di carta e un filone di pane. Quando se ne fu andata, aprì la cassa. $10. Credeva d'aver toccato il fondo già da tempo, ma ora sapeva che non c'era fondo. «Ho faticato come uno schiavo per tutta la vita», pensò, «e per niente». Poi sentì Carp che lo chiamava dal retro. Andò di là, stanco. Alzò il vetro e con voce aspra chiese «Che c'è?» «Chiama la polizia», gridò Carp. «La macchina è dall'altra parte della strada». «A quale macchina?» «I rapinatori! Non c'è nessuno in quella macchina, ho guardato io!» «Per l'amor di Dio, chiama la polizia! Pagherò io la telefonata!» Morris chiuse la finestra, cercò il numero sulla guida e stava per chiamare la polizia, ma in quel momento sentì aprirsi la porta del negozio e si affrettò a tornare in bottega. Due uomini stavano in piedi dall'altra parte del banco. Avevano i volti coperti da fazzoletti, uno giallo sporco, pieno di macchie, l'altro bianco. Quello col fazzoletto bianco cominciò a spegnere le luci. Ci volle mezzo minuto a Morris per capire che la loro vittima non era Carp, era lui. Morris, seduto al tavolo, con la testa illuminata dalla luce fioca della lampadina polverosa, fissava tristemente quei pochi stazzonati biglietti di banca che gli stavano davanti, compreso l'assegno di Helen e la piccola pila di monete d'argento. Il bandito, col fazzoletto sporco, grasso, con in testa un cappello nero floscio, lo minacciava con la pistola. La sua fronte foruncolosa grondava sudore, di tanto in tanto lanciava un'occhiata furtiva nel negozio buio. L'altro, un individuo più alto che in testa portava un vecchio berretto e ai piedi scarpe da ginnastica tutte rotte, s'era appoggiato all'acquaio per controllare il suo tremito e intanto si puliva le unghie con un fiammifero. Si voltava spesso a sbirciare dietro di sé nello specchio rotto appeso sopra l'acquaio. «Non me la dai a bere. Questo non può essere tutto l'incasso», disse a Morris il grasso con una voce roca. «Dove hai nascosto il resto?» Morris, con lo stomaco sconvolto, non riusciva ad articolare parola. «Di la verità, per Dio», puntò la pistola alla bocca del droghiere. «Sono tempi brutti», mormorò Morris. «Sei un ebreo impostore». L'individuo che stava accanto all'acquaio fece un segno con la mano per attirare l'attenzione del complice. Si incontrarono nel mezzo della stanza. Quello col berretto si chinò con impaccio sull'altro col cappello floscio e gli mormorò qualcosa nell'orecchio. «No», ribatté aspramente il grasso. Il compagno si chinò ancora di più, parlandogli fitto attraverso il fazzoletto, sottovoce. «Ti dico che lo ha nascosto», ringhiò il grasso, «e me lo farò dare, dovessi fracassargli quella maledetta testa». Si avvicinò al tavolo e mollò un manrovescio al negoziante. Morris gemette. L'altro, che stava vicino all'acquaio, sciacquò in fretta una tazza, la riempì d'acqua e la portò al negoziante, rovesciandogliene un poco sul grembiule, mentre gliel'accostava alle labbra. Morris cercò di bere, ma riuscì a inghiottire solo un piccolo sorso. Con gli occhi spaventati cercò quelli del bandito, ma costui stava guardando altrove. «Vi prego», mormorò. «Spicciati», lo ammonì quello che teneva la pistola. Quello alto si raddrizzò e buttò giù il resto dell'acqua. Risciacquò la tazza e la ripose su un ripiano della credenza. Si mise a cercare tra le tazze e i piatti e tirò fuori le pentole che stavano in basso. Poi, rapidamente, ispezionò i cassetti di una vecchia scrivania e si inginocchiò per frugare sotto il divano. Si infilò nel negozio, tirò fuori il cassetto vuoto del registratore e ficcò la mano nel buco, ma senza risultato. Tornando in cucina, prese l'altro per il braccio, sussurrandogli concitatamente qualcosa. Quello lo scostò col gomito. «Meglio tagliare la corda. Ti metti a fare il cagar sotto adesso? È tutta lì la grana che ha. Battiamocela!» «Sono momenti brutti», borbottò Morris. «Il tuo culo ebreo è brutto, capito? Non fatemi del male. È l'ultima volta che te lo chiedo. Dove l'hai nascosto?» «Sono povero», la voce gli usciva di tra le labbra spaccate. Quello col fazzoletto sporco alzò la pistola. L'altro, guardando nello specchio, gli faceva gesti frenetici, con gli occhi neri fuori dalle orbite, ma Morris vide il colpo calare e sentì nausea di se stesso, delle speranze deluse, della continua frustrazione, degli anni sprecati, tanti, che non poteva nemmeno cominciare a contarli. Aveva molto sperato dall'America e ha avuto ben poco. e per colpa sua Elena e Ida avevano ancor meno. Le aveva derubate, lui e quel negozio che succhiava il sangue. Cadde senza un grido. Era la degna conclusione della giornata. Era il suo destino. Altri ne avevano uno migliore. Per tutta la settimana che Morris trascorse a letto, la testa avvolta in spesse bende, Ida si occupò del negozio in modo disordinato. Faceva su e giù le scale 20 volte al giorno, finché le dolevano tutte le ossa e la testa per tutte le preoccupazioni che aveva. Helen rimase a casa il sabato, che era giornata semilavorativa nel suo ufficio, e il lunedì per dare una mano a sua madre, ma non poteva rischiare di prolungare l'assenza più di così, per cui Ida, che mangiava quando le capitava e aveva ormai i nervi a pezzi, dovette chiudere per tutto un giorno, nonostante le adirate proteste di Morris. Insisteva a dire che non aveva bisogno di cure e cercava di convincerla a tenere aperto almeno mezza giornata per non perdere quei pochi clienti che ancora gli restavano. Ma Ida, ormai senza fiato, rispose che le mancavano le forze, che le gambe le facevano male. Il negoziante cercò di alzarsi ed infilarsi i pantaloni, ma lo assalì un violento mal di capo e dovette rimettersi a letto. Quel martedì in cui il negozio rimase chiuso, comparve nel quartiere un tipo mai visto prima, che passava buona parte del tempo fermo accanto al negozio di Saint Pearl, con uno stecchino tra i denti, a osservare attentamente la gente che passava. Oppure camminava lungo tutto l'isolato dei negozi, alcuni dei quali vuoti, da quello di Pearl fino al bar all'altro capo della strada. Dopo c'era un deposito merci e, più in là ancora, un grosso magazzino. Facendo tappa di tanto in tanto al bar a sorseggiare una birra, il forestiero voltava l'angolo costeggiando l'altro recinto del deposito di carbone e faceva il giro di tutto l'isolato fino a ritrovarsi al negozio di dolciumi di Sam. Ogni tanto attraversava la strada, si avvicinava al negozio chiuso di Morris e, riparandosi gli occhi con le mani, guardava in vetrina. Sospirando, tornava al negozio di Sam. Quando si era stufato di quell'angolo, rifaceva il giro dell'isolato o se ne andava in qualche altra zona del quartiere. Helen aveva incollato un avviso sul vetro dell'ingresso per dire che suo padre non stava bene, ma che il negozio si sarebbe riaperto mercoledì. L'uomo studiò a lungo questo avviso. Era giovane, con la barba scura, indossava un vecchio cappello marrone macchiato di pioggia, scarpe di vernice screpolate e un lungo soprabito nero che aveva tutta l'aria di avergli fatto da casa. Era alto e niente affatto brutto, se non fosse stato per il naso rotto e malamente rimesso in sesto che gli guastava la simmetria del volto. Gli occhi erano malinconici. Talvolta se ne stava seduto accanto al sifone del Sels insieme a Saint Pearl, assorto nei suoi pensieri, fumando sigarette che tirava fuori da un gualcito pacchetto comprato, raggranellando le monete che aveva in tasca. Benché nessuno gliel'avesse chiesto, disse di chiamarsi Frank Alpine ed essere arrivato da poco dall'ovest per cercare di farsi strada. Sam gli consigliò di procurarsi la patente e cercare lavoro come autista. Non era una brutta vita. L'uomo gli diede ragione, ma continuò a bighellonare lì attorno come in attesa di qualche altra occasione. Sam lo giudicò un lunatico. Il giorno che Ida riaprì il negozio, lo straniero scomparve, ma si rifece vivo la mattina seguente nel negozio di dolciumi, si sedette dietro il sifone del Sels e chiese un caffè. Aveva l'aria turbata, infelice, e la barba dura, scura, contrastava con il pallore del viso. Aveva le narici arrossate e la voce roca. «Sembra mezzo morto», pensò Sam. «Lo sa Dio in che buco ha dormito stanotte». Mentre girava il caffè, Frank Alpine aprì con l'altra mano una rivista che giaceva sul banco e il suo sguardo fu attratto da un'illustrazione a colori raffigurante un frate. Sollevò la tazza per bere, ma subito la posò di nuovo e tenne gli occhi fissi sull'illustrazione per 5 minuti. Sam, incuriosito, gli girò alle spalle con la scopa per vedere cosa stesse guardando. Era l'immagine di un frate dal viso magro e dalla barba scura, che indossava una ruvida veste marrone e stava a piedi nudi in mezzo a una strada assolata. Alzava le braccia scarne e pelose verso uno stormo di uccelli che gli calavano sul capo. Sullo sfondo si vedeva un boschetto frondoso e all'orizzonte una chiesa illuminata dal sole. «Deve essere un prete», azzardò Sam. «No, è San Francesco d'Assisi. Lo si capisce dal saio marrone e da tutti quegli uccelli per aria. È quando predicava agli uccelli. Quando ero ragazzo, un vecchio prete veniva all'orfanatrofio dove sono stato allevato e ogni volta che veniva ci leggeva una storia di San Francesco. Me le ricordo tutte quante. Le storie sono storie», disse Sam. «Non so neanch'io come ho fatto a non dimenticarmele». Sam osservò l'illustrazione più da vicino. Parlava agli uccelli. Ma cos'era, matto? Il forestiero sorrise all'ebreo. «Era un grand'uomo. Per come la vedo io, ci vuole un certo fegato per predicare agli uccelli. Un grand'uomo perché parlava agli uccelli? Anche altre cose. Per esempio, ha dato via tutto ciò che possedeva fino all'ultimo centesimo e tutti i vestiti che aveva indosso. Era contento d'essere povero. Diceva che la povertà era una regina e l'amava come una bella donna». Sam scosse il capo. «Bella non è, ragazzo mio. Esser poveri è una sporca faccenda. Vedeva le cose in modo nuovo. Il negoziante di dolciumi diede un'altra occhiata a San Francesco, poi ficcò la scopa in un angolo sudicio. Frank, bevendo il caffè, continuò a esaminare l'immagine. Disse a Sam: «Ogni volta che leggo di qualcuno come lui, sento qualcosa dentro di me e devo fare uno sforzo per non piangere. Era nato buono, il che è una virtù se uno ce l'ha». Parlava con imbarazzo, mettendo in imbarazzo anche Sam. Frank scolò la tazza e se ne andò. Quella sera, nel passare accanto al negozio di Morris, guardò dalla porta e scorse Helen che dava il cambio a sua madre. Lei alzò la testa e vide che lui la fissava attraverso il cristallo della vetrina. Il suo aspetto la colpì. Gli occhi erano allucinati, affamati, tristi. Credette che sarebbe entrato a chiedere l'elemosina e decise di dargli 10 cents. Ma Frank scomparve.